Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, settimana che inizia sul fronte economico più che finanziario in salita. E perché? Perché lo spread italiano, l'effetto spread oggi si può tranquillamente chiamare effetto Le Pen o paura Le Pen, a seconda di come uno la pensi, e quindi le dichiarazioni della candidata, mentre Fillon continua a dire che resta in corsa e Macron sembra essere diciamo l'outsider di turno, parlo chiaramente delle elezioni francesi, le dichiarazioni della candidata Marine Le Pen hanno chiaramente spaventato i mercati. Poi non può dire bene, giusto, ha fatto bene a dire che se vincerà ci sarà un periodo di sei mesi in cui di interregno per portare la Francia all'uscita dall'euro. Il risultato è che, al di là adesso parleremo anche dello spread italiano, lo spread francese è ai massimi, quindi la differenza tra quanto rendono i BTP francesi a 10 anni rispetto a quelli tedeschi è al massimo dal marzo 2013 a 72 punti base, ancora molto meno rispetto a quanto sia lo spread italiano e anche spagnolo, però 72 punti base vuol dire che il BTP a 10 anni francese rende l'1,1%. Quello italiano invece continua a correre ed è per la prima volta dal febbraio 2014 a 200 punti e rende il 2,35%. La conseguenza qual è? È l'indebolimento di tutti i titoli bancari. Non ci vuole infatti un genio a capire che se le banche hanno in pancia titoli di Stato, l'aumento dello spread va a penalizzarle. Poi c'è il caso, nel caso di Unicredit, che già dall'inizio seduta perdeva ben più del mercato, poi sospesa, poi riammessa. Comunque Biper Banca perde il 5,40, BPM il 5,30, Unicredit il 4,60, UbiBanca il 4,5, Unipol il 4,30, Mediobanca il 4,20% e FinecoBank il 3,50%. Cala meno Intesa San Paolo meno 2,60 e Generali meno 2,5%. Devo dire che però è negativa anche Eni, che perde il 2,30%, e tra i non bancari, che comunque sono i peggiori del listino a maggiore capitalizzazione, troviamo Leonardo, Finmeccanica, meno 2,70%. Positiva invece sia Case New Holland, più 3,90% per CNH Industrial, che Telecom Italia, più 1,80%. Complessivamente l'indice perde quasi il 2%, Parigi l'1%, Francoforte l'1,13%, Londra solo lo 0,25%, Dow Jones e da questo punto di vista sostanzialmente invariato. Parleremo quindi dei temi europei intesi come spauracchio, paura, tensioni sullo spread, ma anche e soprattutto l'annuncio arrivato nel fine settimana dal vertice di Malta da parte di Angela Merkel, sì a un'Europa a due velocità. Ora devo raffreddare gli entusiasmi di chi ha capito male, e cioè l'Europa a due velocità che intende la Merkel non è l'Europa a 2 euro di serie A e di serie B, ma è un'Europa in cui alcuni processi di integrazione, che a questo punto sono giudicati non più rinviabili, vedremo se sarà così, a fronte anche della rivoluzione che sta generando, piaccia o non piaccia, Donald Trump, e quindi maggiore integrazione di carattere nella politica estera, maggiore integrazione nella difesa, risposta in qualche modo all'idea di Trump di alleggerire, non vado oltre, il peso degli Stati Uniti nella NATO e anche come, diciamo, gendarme del mondo. Ebbene, Angela Merkel ha detto occorrerebbe andare avanti con Europa a due velocità, c'è un nucleo che è già maggiormente integrato. Lì il riferimento, guardate, era anche alle politiche dei flussi migratori, dove ci sono due paesi, Polonia e Ungheria, che andrebbero sanzionati pesantemente, iniziando a ridurre quelli che sono i finanziamenti europei verso questi due paesi, perché non vogliono accettare la regola della ripartizione equa. A questo si riferiva, non c'è mai stata una Angela Merkel che pensasse a un euro di serie A, un euro di serie B, lo dico, magari qualcuno resterà deluso. Un sondaggio, tra l'altro, del Financial Times oggi dà in Germania in vantaggio, anche se di pochissime. Sappiamo che i sondaggi hanno preso le gran cantonate come giornalisti nella parte politica in questi anni. I socialdemocratici al 31%, quindi Martin Schulz, contro il 30% del blocco cristiano democratico, quello di Angela Merkel. E ancora, detto questo, abbiamo anche un insieme di varie dichiarazioni di Mario Draghi che commenteremo, che in qualche modo rispondono anche a Trump indirettamente, ci mancherebbe. Draghi ha detto l'euro è irrevocabile, il mercato unico non sopravviverà davanti a svalutazioni competitive, e soprattutto ha detto attenzione, la deregolamentazione, o meglio l'allentamento delle misure su Wall Street è un danno, ha criticato molto quello che l'allentamento delle regole finanziarie preoccupa, ha detto Draghi, riferito alla riforma avanzata da Trump su Wall Street, che va a ridurre, se non sospendere, una legge già molto debole, già molto all'acqua di rose, fatta da Obama. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, visto che parlavamo dello spread però, e dello spread italiano a 200 punti, su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, sole 24 ore, oggi a firma del vice direttore Alessandro Platerotti, ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Platerotti. Lo spread che torna a correre fa paura, ricorda i momenti difficili del 2011, quando appunto l'Italia era sotto tiro della speculazione internazionale e i titoli di Stato avevano i rendimenti che volavano. Ma ci troviamo in una situazione analoga, è difficile dirlo, e soprattutto non ci sono più le stesse condizioni di allora. C'è in particolare Draghi che sta comprando i titoli di Stato, ma questo al mercato in questo momento non basta. C'è troppa incertezza internazionale, ci sono troppe nubi sull'euro e soprattutto sulle relazioni transatlantiche. Ma in particolare c'è un elemento che tiene un po' tutti con il fiato sospeso: l'Italia e i paesi più deboli dell'Eurozona. La Francia non lo è, però abbiamo visto il suo spread volare nuovamente su quello tedesco. Che cosa c'è che non va? C'è che l'euro, questo grande ombrello, riesce a proteggere le nazioni dalle tensioni interne, ed abbiamo visto quante ce ne sono state in Italia, ma non riesce a proteggere i paesi più deboli dalle tensioni internazionali. Quando c'è il vento che monta sull'economia, sul dollaro, sull'euro, sul debito, le parti più deboli dell'Europa sono quelle che si spezzano prima, e purtroppo in questo momento i segni di cedimento vengono proprio dai nostri titoli di Stato. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Arriveremo anche a questo tema, che è il nostro tema di apertura oggi. Dunque, c'è chi, vabbè, adesso oggi non voglio rispondere perché ci sono tante notizie, però è inutile dire no all'euro, no allo spread, no a tutto, capito? No allo spread, lo spread ce l'hai perché lo decidono i mercati, non è che decidiamo noi di avere lo spread, ma oddio, la sovranità nazionale della moneta, sì certo. Perché è noto che infatti l'Italia, quando avesse la lira, decideva autonomamente cosa fare con la lira, mica ci bastonavano gli altri, mica ci cacciavano gli altri dallo SME, come accadde nel 92, per chi ha memoria, e per la precisione io quel giorno ero all'estero, non si potevano cambiare lire, ero in Spagna. Sapete che bella sensazione che andare in una banca e chiedere di cambiare la tua valuta? Oggi l'unica valuta al mondo che non si poteva cambiare era la lira, quando fummo cacciati dallo SME. Comunque andiamo avanti. Allora, per quello che riguarda il mercato, abbiamo detto invece, sul fronte internazionale, Toyota, gli utili operativi meno 32%, ma rivede le stime sull'obiettivo al rialzo. Per quello che riguarda invece il battibecco con Trump, ormai sta diventando quasi una telecronaca, oggi il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker dice Trump o no, l'Unione Europea deve continuare sulla sua traiettoria, e poi dice riferito alla Brexit, l'uscita di un paese dall'Unione Europea siamo tutti d'accordo su questo, non può portare vantaggi a quel paese. Allora, voglio dire, se sei ancora a cuore sta Europa, o perlomeno se almeno Juncker ce l'ha a cuore, è ovvio che se il messaggio che esce è che la Gran Bretagna ha dei vantaggi nel processo di Brexit, voglio dire, no? Devi dare degli svantaggi forti rispetto a quello che era l'atteggiamento inglese. Comunque, mentre Angela Merkel si candida, come già ampiamente annunciato, ma l'ha fatto ufficialmente per la quarta volta, come cancelliera tedesca, e ha il sostegno anche dei cristiano sociali bavaresi, diciamo un pezzo fondamentale della CDU, Berlino ripropone il tema del fine settimana, dice: esiste già un'Europa a diverse velocità, come nel caso dell'area euro e di chi è fuori dall'euro, o di Schengen e di chi è fuori da Schengen, e in tutti i casi la Germania è dentro la parte più avanzata. Non vedo quindi alcun pericolo o situazione in cui la Germania non potrebbe partecipare. E visto che parlavamo di sondaggi, non ci sono solo quelli sulla Germania, ci sono anche quelli sulla Francia, dove secondo tutti gli istituti transalpini alla fine il ballottaggio sarà tra Marine Le Pen ed Emmanuel Macron per le presidenziali di aprile-maggio. Secondo lo studio ultimo diffuso l'ex ministro dell'economia, che è uscito, lo ricordo, dal governo, non è passato attraverso le primarie socialiste, ha fondato il suo partito, diciamo che vuole superare la destra e la sinistra francese. Dicevo, Macron raccoglierebbe 23% delle intenzioni di voto, dietro comunque Marine Le Pen, perché Front National sarebbe 26%. François Fillon, travolto, lo ricordo, lo scandalo dei presunti impieghi fittizi familiari, arriva solo al 20%. Il candidato socialista Hamon al 14, quello della, diciamo, della sinistra più radicale francese, Jean-Luc Mélenchon all'11%. Però sappiamo come funziona il sistema francese, poi va al ballottaggio al secondo turno. Nel secondo turno Macron batterebbe in modo ampio Le Pen con il 65% dei voti contro il 35%. Vediamo l'Italia. Ahimè, oggi la notizia di Carrefour, che hanno ricordato anche i nostri GR, ha aperto oggi la procedura di mobilità di licenziamento per 500 lavoratori in 57 ipermercati italiani. Ci saranno ora 45 giorni di tempo per raggiungere un accordo sindacale sulla mobilità, lo hanno comunicato i sindacali, e poi chiuderà tre supermercati a Trofarello e a Borgo Manero in Piemonte, e poi a Ponte Cagnano in Campania. Questo nel giorno in cui tra l'altro la Confcommercio, andando a guardare l'indicatore dicembre 2016 e commentando il 2016, dice che c'è stata una leggera ripresa nei consumi, più 0,5%, però più bassa rispetto a quella del 2015, quando fu dell'1,1%. La ripresa quindi è ancora lenta. Interessante quanto oggi racconta Franco Gabrielli, capo della polizia italiana, che dice: guardate che se noi recuperassimo come economia sommersa, scendessimo al livello medio dei paesi dell'area euro, recupereremmo circa il 2,5% del PIL, cioè circa 40 miliardi. Cioè questo se scendessimo, diciamo, dal 20% del PIL, cioè 310 miliardi, a un livello medio dell'area euro, cioè un paio di manovre finanziarie. E poi il direttore dell'Agenzia di Entrate Rossello Orlandi, che ribadisce quanto ho già detto qui al Sole 24 Ore in occasione di Telefisco, cioè l'evasione dell'IVA è la prima voce di evasione, e poi che Equitalia cesserà la sua attività il 1 luglio e diventerà un'agenzia fiscale così come previsto dalla legge. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Iniziamo col primo tema. Da un lato Angela Merkel, l'Europa a due velocità, e dall'altro anche varie dichiarazioni oggi di Mario Draghi. Ah, Allora, vabbè, io vedo che c'è un gruppo d'ascoltatori che si diverte a scrivere, io non li leggo, lo dico già quando sono paradossalmente le panzane, adesso non le leggo per rispetto ad altri ascoltatori, per non perdere tempo. Le bugie, le vostre bugie, la disinformazione, ma vada a informarsi dove crede, non lo so che siti usa. Comunque, questa la dice lunga, però al di là dei, diciamo, dei casi così più che altro paradossali, la dice lunga sul clima che regna, cioè c'è questa idea che a un certo momento ci possa essere una bacchetta magica che ci porta fuori da tutti i problemi, buona parte dei quali sono nostri, li abbiamo generati noi, altri li ha generati l'Europa a trazione guida tedesca con la miopia che abbiamo raccontato in questi anni. E infatti arriviamo nel 2017, scusatemi, con elezioni in Francia, in Germania e forse anche in Italia, con il massimo della disaffezione nei confronti dell'Europa. Giro intanto questo primo commento a Daniel Gross, direttore del centro del Center for European Policy Studies di Bruxelles. Buonasera Gross. Buonasera. Alziamo un attimo il livello di Gross perché lo sentiamo un po' basso, e grazie anche alla mitica Adriana Ceretelli in collegamento con noi sempre da Bruxelles, ma da un altro posto, immagino. Buonasera Adriana. Buonasera. Ecco, sentiamo male tutti e due, cioè sono due posti diversi, ma sia con Ceretelli che con Gross problemi. Gross, prima di ragionare su cosa intende la Merkel per un'Europa a due velocità e invece le reazioni oggi del mercato alle dichiarazioni della Le Pen, possiamo almeno dire che pur con tutte le responsabilità che i singoli paesi hanno, l'Italia per quello che riguarda l'Italia, la Francia per quello che riguarda le riforme francesi, la gestione dell'Europa fino adesso è stata, diciamo dal 2010 in poi, un disastro politicamente parlando? No, direi un disastro, perché il disastro appunto non c'è stato. No, diciamo negativa, un disastro forse forte. Sì, è stato la reazione alla crisi finanziaria è stata troppo lenta, questo è chiaro. E poi si può discutere se l'austerità poi ha aiutato a farci superare la crisi o invece l'ha resa più profonda. Ma su questo gli economisti divergono. Ma a parte gli economisti, politicamente, visto che lei dirige un centro che è anche, diciamo, di politiche, non di sulla politica, politicamente possiamo dire 6 anni di distanza che l'austerità ha, perlomeno, io poi non parlo della parte economica e delle responsabilità dei singoli governi, ma ha generato questi tassi di disaffezione, o secondo lei si sarebbero creati comunque? Io direi, è chiaro che in Italia, Grecia, altri paesi della periferia, l'austerità ha insomma contribuito a rendere l'euro meno popolare, ma l'Europa si trova in una situazione molto difficile, perché quello che la gente vuole, il ritorno indietro ai bei tempi in cui certi problemi non esistevano, questo ritorno facile non è più possibile, lo vediamo anche con le proposte delle Le Pen, per cui è chiaro, addossano all'Europa tutte le colpe possibili, anche se l'Europa in molti casi sarebbe o potrebbe essere parte della soluzione piuttosto del problema. Allora Adriana Ceretelli, perché so che poi tu ci devi lasciare fra un po', due cose. La prima, chiariamo una volta per tutte che cosa intendesse Angela Merkel per un'Europa a due velocità, perché molti hanno detto, ah ecco, euro di serie A, euro di serie B, si riferiva a difesa e, diciamo, anche politica estera, citando Schengen e l'euro. E poi invece vorrei una seconda tua risposta sulla Le Pen. Partiamo dalla Merkel però. Beh, che cosa esattamente la Merkel intendesse dire è difficile dire, so, perché lei, la dice. Merkel ha semplicemente detto a Roma dovremo cercare di inserire il problema dell'Europa a più velocità, ma non è che sia andata a specificare come, quando. Credo che nessuno oggi sappia che cosa voglia dire questo, anche perché i problemi per ricreare l'Europa fondandola su più velocità sono estremamente complessi. È un po' come se fosse una nuova Brexit sotto certi aspetti, per cui bisognerà vedere chi potrà stare con chi, perché non è che sia così semplice riorganizzare le partnership. Non sempre i paesi che sono anche dentro a Schengen, dentro la moneta unica, dentro al mercato unico, hanno le stesse idee, gli stessi tipi di accordi, per cui è un'impresa secondo me ciclopica, andrà fatta perché così non si può più andare avanti, ma non sarà certamente una passeggiata per nessuno. ed è oggi difficile dire chi, dove, eccetera. Forse la più facile in teoria è la difesa, perché ancora non c'è, ma lì si creano altri problemi. Per esempio il condominio sul bottone nucleare francese, non lo so, ma questo sarà una delle grandi questioni, per esempio, se faremo la difesa. E poi la NATO ci sarà o non ci sarà? Ci sono troppe variabili oggi per poter dire qualcosa di serio, di concreto, di propositivo, diciamo. Penso che quello della Merkel sia stato un ballon d'essai politico per dire dobbiamo ripartire, certo. Ed è anche un modo di rispondere all'euroscetticismo dilagante. Lo stesso Draghi oggi al Parlamento europeo, no, ha ricordato che non si può immaginare di mantenere il mercato unico insieme alle svalutazioni, che l'euro resta irreversibile. Quindi ci sono, e lui stesso non si è pronunciato sull'Europa a più velocità, proprio perché nessuno sa esattamente cosa voglia dire, perché le più velocità già esistono. Esiste già Schengen, e quindi alcuni paesi partecipano, unica, altri no, esiste unico, già la moneta unica, ma poi alcuni altri esistono, no. Altri, cioè esistono delle minori, per esempio in campo giuridico, sul fatto dei regimi familiari, i divorzi, le cose, ci sono delle cooperazioni rafforzate varie, c'è il tentativo di fare quella della tassa sulle transazioni finanziarie, che ancora non è arrivata al capolinea e non si sa mai se arriverà. Dunque ce ne sono molte, per cui il problema è che cosa si vuol dire quando si dice riaggregheremo in questo modo e con chi, in quali settori. Cioè è impossibile, secondo me, in questo momento dire qualcosa, diciamo, di credibile, ecco. Non possono essere solo allora, Adriana, ecco, è chiaro, come dicevi tu, che la risposta della Merkel è una risposta in primo luogo politica, vuole dire abbiamo un partito in Germania come Alternative for Deutschland che è anti-europeista, i socialisti di Schulz accusano la Merkel invece di avere, diciamo, mal gestito l'Europa proprio per le tensioni anti-europeiste. La Merkel dice io sono pronta a rilanciare per una nuova visione, chiamiamola così in maniera un po' forte, di Europa. Un commento però sulla Le Pen, perché insomma io capisco tutto. La Le Pen ha detto una cosa che ci si poteva aspettare, ha detto se vincerò io inizierà un iter di 6 mesi per portare la Francia fuori dall'euro, che poi sia fuori dall'euro rinegoziando vedremo. Lo spread francese è salito. Ora, a parte il fatto che tutti i sondaggi ci dicono che lei è quella che ha il maggior numero di voti in proporzione, ma poi in caso di ballottaggio vi sarebbe, come in Francia si può fare, già successo molte volte, andrebbero tutti, sia i gollisti che i socialisti, ad appoggiare Macron pur di non far votare Le Pen. Ma non c'è molta speculazione dietro questo aumento dello spread sia francese che italiano? Ma io non credo, perché purtroppo il 2016 ci ha abituato a degli eventi totalmente imprevisti e a delle, come dire, a delle rivolte, degli scatti di malumore popolare che hanno portato dei risultati imprevedibili. Dunque Brexit a voce ferma e nessuno lo dava come possibile ed è accaduta. Trump idem. Ora Le Pen è la stessa cosa, il sentimento che si ha verso Le Pen è quello, no? Vince il primo turno ma chi se ne frega, tanto al secondo perde, e naturalmente tutti vorremmo che perdesse. Ma no, non tutti, magari alcuni quale... no, molti amano Le Pen, ci mancherebbe. Almeno presumo anche te, tutti a Bruxelles. Non vorrei che la Le Pen vincesse, a me non mi sembra molto rassicurante, o perlomeno non condivido il suo messaggio sulla NATO, sull'euro, eccetera. Ma resta il fatto che le opinioni pubbliche votano e votano quello che ritengono più opportuno votare, e quindi e molto spesso nei sondaggi la gente non dice quello che voterà davvero, soprattutto sui partiti, quindi, considerati tra virgolette meno presentabili, lo dico senza nessuna offesa. È molto difficile dire se alla fine ci sarà un colpo di testa anche francese. Io naturalmente mi auguro di no. Però per esempio in Olanda Wilders, che è, diciamo, il populista olandese, è il primo partito in questo momento, e lo stesso premier olandese Rutte lancia messaggi che rincorrono il populismo anti-euroscettico e anti-immigrati di Wilders. Lo stesso avviene per esempio in Austria, dove certo il Presidente della Repubblica non è stato l'euroscettico di estrema destra, però il partito anche lui a sua volta è al primo posto. Quindi diciamo che ci sono dei sommovimenti nelle società europee in questo momento, che sono molto anti-establishment, che sono protezioniste, che esprimono l'insicurezza delle società. Ora, c'è un po' di ripresa in Europa, gli ultimi dati sembrano in qualche modo incoraggiare. Se dovesse tornare un minimo di crescita, probabilmente questi sentimenti diciamo diminuirebbero, ma se dovesse continuare una situazione come quella che abbiamo vissuto negli ultimi 6, 7, 8 anni, è difficile dire che cosa succederà, secondo me, o perlomeno è troppo presto dirlo. Siamo ancora a 2 mesi dalle ma è chiarissimo, e fai bene a ricordare che sì, ci può essere un po' di speculazione, ma dopo il 2016 che abbiamo avuto, lo dico senza nessun giudizio di valore, come dato di fatto, di sorprese continue, insomma, e io aggiungo anche qui come giudizio di valore, non come giudizio di fatto, come giudizio di fatto non di valore, lo stesso fallimento di Renzi al referendum, che poi si era capito che andava a schiantarsi, però se mettiamo indietro le lancette d'orologio e andiamo al 2015, sembrava il vincitore politico di questo paese, per cui oltre, diciamo, al caso Cameron, Hillary Clinton, io aggiungo anche Renzi. Andiamo, resti con noi invece Daniel Gross, perché vorrei sentire proprio su questo il suo commento dopo il metodo, la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Allora, alcune risposte. Guardate che la Ceretelli ha dato la sua definizione della Marine Le Pen, è la sua opinione personale, io semplicemente, che poi se dovesse vincere la Le Pen anche al ballottaggio significherebbe che gli altri erano meno in sintonia con il paese, è verissimo, l'abbiamo detto per Trump, l'abbiamo detto per la cavolata che ha fatto Cameron convinto di fare e gli si è ritorta contro, insomma, non c'è dubbio, una democrazia vince chi è più in sintonia col paese. Poi uno può dire attenzione, il programma è pericoloso, per carità, ma è il gioco della democrazia, non scherziamo su questo. Però Daniel Gross, intanto anche per lei il commento sull'andamento dello spread oggi in Italia e in Francia, e quindi se non ci sia della speculazione oppure ormai nessuno si fida più di nessuno, e l'Europa a due velocità, così annunciata da Angela Merkel. Oh, io direi ha ragione chi dice che è anticipazione. Qual è la differenza tra speculazione e anticipazione? Qui si vede che si sta avvicinando un evento che sarà molto difficile da prevedere, e per questo che i mercati diventano nervosi, ed è chiaro che se scricchiola l'euro con la Francia, anche l'Italia è in pericolo. Ma se si guarda un po' al di là, nell'orto dell'Europa, si vede anche che l'economia non è l'unica variabile. È quello. In Austria la destra è quasi arrivata a vincere, in un paese in cui non c'è veramente nessun problema economico. E una ondata di fondo di gente che vuole riavere il controllo, almeno l'illusione del controllo, anche se magari costa dal punto di vista economico, come si è visto in Inghilterra. Per cui io non mi metterei a scommettere su una ripresa economica per tenere l'euro insieme, ci vuole un po' di più. Cioè, lei dice che non basterebbe un'eventuale ripresa economica per ridurre i partiti che sono più euroscettici, mettiamola così. Ecco, appunto, e questo secondo me punta Angela Merkel. Lei dice che l'Europa deve dare quello che richiedono i cittadini, cioè la sicurezza, sicurezza esterna e interna, ed è su questo versante che dobbiamo, questi due versanti che dobbiamo avanzare, anche se non tutti ci potranno stare. Molto semplice. E quindi diciamo politiche interne di sicurezza oltre che politiche estere. L'altro tema riguarda però invece la Francia, visto che ne stiamo parlando. Allora, lei ha ragione, a mio avviso, nel dire che attenzione, se si va a vedere, io aggiungerei oltre all'Austria anche Alternative for Deutschland in Germania. La Germania è un paese che sta benissimo da un punto di vista economico, non ha avuto nessun problema da questa gestione dell'Europa, eppure anche lì avanza un movimento forte di scetticismo nei confronti dell'integrazione dell'Europa. Non è solo la variabile economica, tant'è che questi movimenti li abbiamo prima veniva citata l'Olanda, l'Olanda è un altro paese che non ha un grosso problema economico, li abbiamo anche in paesi dove l'economia è andata meglio che da noi e meglio anche che in Francia o in Spagna. Sul tema però, diciamo, delle risposte che possono arrivare, lei ritiene che un paese come la Francia, andando poi al ballottaggio con una Le Pen che coerentemente, correttamente dal suo punto di vista ha chiarito: io se vinco inizierò un percorso per uscire dall'euro, una Frexit, un'uscita della Francia dall'euro, che i francesi possono votare questa ipotesi? Io penso che sia molto poco probabile, perché i francesi rendono conto, senza l'Europa, con la Frexit, poi sarebbero nel vecchio continente da soli davanti alla Germania. E proprio in questo momento in cui la Germania pare così forte, non penso che sarebbe molto, come dire, attrattivo per i francesi dirsi: usciamo da tutte queste strutture, poi essere soli e trovarci di soli di fronte alla Germania, e affidandoci su una Russia di Putin non mi sembra un'alternativa molto attraente. Ecco, colgo anche alcuni spunti degli ascoltatori, però è vero che anche in Germania e anche in Francia sono aumentate le differenze, cioè noi guardiamo i dati aggregati all'occupazione, è vero il PIL, però se poi guardiamo l'indice di Gini, cioè le differenze all'interno delle classi sociali pure lì sono cresciute, e si usò per Trump la stessa spiegazione, dire: attenzione, sì è vero che l'America di Obama ha ricreato l'occupazione, ma un'occupazione di cattiva qualità che non soddisfa, e quindi la classe medio-bassa ha votato prevalentemente Trump. Questo per dire Gross, che cosa? È vero che c'è una reazione anche politica nei confronti della gestione della sicurezza europea, però secondo lei quanto può durare? Allora, ammettiamo che, diciamo, alla fine ce la faccia la Merkel oppure Schulz per poco, e ce la faccia Macron, mi sembra di capire, per poco. Uno può tirare un sospiro di sollievo a livello europeo, dire: ah, questa Europa resta, ma quanto può reggere con questi tassi di crescita e con questi vincoli? Ma i tassi di crescita che dobbiamo aspettarci sono quelli di un'Europa in cui la demografia è un fattore negativo, per cui non sarà mai molto di più di quanto abbiamo adesso. Invece, secondo me, si dovrebbe puntare appunto sul sentimento di insicurezza, si dovrebbe puntare allora sulla difesa comune, sulla protezione delle frontiere esterne, e questo è per esempio un campo in cui l'Europa potrebbe fare molto di più per l'Italia. E per me è uno dei metodi per far vedere alla gente che l'Europa è veramente un fattore importante anche nella loro vita. E quindi i temi dei flussi di migranti non solo. E a questo punto però avrebbe ragione, per concludere, Gross, la Merkel, dire: alcuni paesi, penso alla Polonia e all'Ungheria, che non ci vogliono stare nel ripartirsi le quote, andiamo avanti con due velocità europee. Appunto, e questo è il sentimento molto, come dire, pratico e concreto. I cittadini aspettano delle risposte concrete, noi li dobbiamo fare con chi ci sta, e chi non ci sta, scusate, dobbiamo avanzare. Gross, un'autocritica rispetto alle previsioni fatte 5 anni fa, visto che lei ne parliamo da tempo, cioè che cosa non è andato, o secondo lei che cosa avete sottovalutato, come in questo caso direttore del Center for European Policy Studies? Non abbiamo visto che c'è questa voglia diffusa di riprendere il destino in mano, che l'Unione Europea viene visto come un fattore esterno che non fa parte della vita politica nazionale, e che l'Unione Europea sia piuttosto un problema tra i tanti, che non permette alla politica di fare queste scelte teoricamente chiare e risolutive. Quasi uno Stato estero, quasi un dominatore esterno, non parte di noi stessi. Appunto, e per questo, sia per quanto l'Italia con l'austerità, per la Germania con le frontiere aperte, e con la Francia che suo diffuso senso che la Francia da sola poteva essere più sovrana. Questo era qualcosa che magari si doveva prevedere, ma dall'altro canto cosa può fare l'Europa di diverso, perché è un fattore sempre che fa diminuire almeno in apparenza la sovranità nazionale, mentre aumenta quella reale a lungo termine, ma questo è sempre molto difficile da far vedere alla gente. Sì, sì, sono d'accordo. Cioè, diciamo, la voglia di il ritorno dei nazionalismi, non c'è anche in questo caso un giudizio di valore, solo un giudizio di fatto. Oggettivamente era poco prevedibile prima dello scoppio di questa crisi, dove si capiva che il mercato unico è un'Europa che parlasse più o meno con una sola voce, la più forte nei confronti anche di altri interlocutori a livello mondiale. Grazie anche a Daniel Grosso in collegamento con noi da Bruxelles. Arriverò a rispondere ad alcuni messaggi al 349-238-6666 dopo il traffico. Poi parliamo di borsa, tanto il tema l'abbiamo già introdotto: lo spread oggi penalizza tutti i titoli bancari italiani. Unicredit ci mette del suo, già perdeva più degli altri, chiude con un meno 6,90%, poi Banco BPM meno 5,90%, Biperbanca meno 5,70%, Ubibanca meno 5,5%, Unipol meno 5%. Traffico. Focus Economia. Allora, la borsa, al di là di Unicredit che merita approfondimento apposito, diciamo, lo spread spaventa soprattutto perché le banche italiane hanno molti titoli di Stato. Vedo tantissimi messaggi sull'euro, sulla Russia, sull'Europa. Allora, molti mi scrivono, ma insomma, come si fa a non capire che se tornassimo a essere solo l'Italia non avremmo nessun peso a livello mondiale con, diciamo, dovendo riaffrontare giganti come Stati Uniti e Cina. Ho capito, adesso non mi faccio difendere, fa sempre l'avvocato del diavolo, però chi fa ragionamento di uscire dall'Europa dice: io almeno sono artefice del mio destino, sarà un destino, diciamo, limitato, perché non avrò più il peso del soggetto europeo, però almeno me lo decido io, invece che doverlo contrattare ogni volta con gli altri paesi, magari rischiando pure di non avere nemmeno un grosso peso, perché pesa un po' il modello svizzero, come scrivono alcuni. Certo, bisogna poi essere a Svizzera, ma va benissimo. Insomma, io penso che, personalmente penso che sia un rischio enorme. Detto questo, capisco il ragionamento che fa chi dice: attenzione, voglio decidere il mio destino. Poi che questo si possa fare senza morti e feriti, lo scordate, nel senso, dal punto di vista economico finanziario un'uscita del genere avrebbe chiaramente una ripercussione, ma se l'obiettivo è alto, giustamente, ossia riprendersi in mano il tuo destino, uno dice: vabbè, pagherò quello che c'è da pagare, ma mi riprendo in mano il mio destino. Lo trovo un gioco rischiosissimo, ma era per spiegare anche l'approccio, che non basta dire non conteremo nulla a chi ragiona in questo modo. Comunque, Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Lasciamo stare Unicredit, titoli bancari li archiviamo tra virgolette con lo spread? Ma direi di sì, diciamo che lo spread, Unicredit sotto pressione, e in più non dimentichiamo che nei prossimi giorni saranno pubblicati i conti 2016 di tutte le principali banche, tranne Intesa che l'ha fatto venerdì. Tutto questo contribuisce a mettere il settore sotto pressione a Piazza Affari. Allora, andiamo avanti con invece il resto dei titoli, perché vedo deboli anche Leonardo meno 3,30%, Azimut vabbè meno 3,40%, Fiat meno 2,50%, devo dire Intesa se la cava meglio meno 2,40%, ed Eni alla fine meno 2%. Bene invece CNH e Telecom. Allora, Leonardo Finmeccanica, CNH e Telecom. CNH fa più 3,13%, Telecom più 1,40%. Il Leonardo Finmeccanica ha perso il 3,29%, il titolo ha risentito di quanto riportato dal Sole 24 Ore, che cita l'amministratore delegato di Airbus, Tom Enders, a proposito di uno stallo nelle trattative con Leonardo per la vendita da Leonardo a Airbus del 25% della joint venture MBDA. È un'operazione che gli analisti aspettano e che secondo appunto gli esperti di borsa sarebbe positiva per il titolo Leonardo, e quindi una conferma di questo stallo nelle trattative ha penalizzato oggi le quotazioni della società. Per quanto riguarda gli unici due titoli positivi oggi sul FTSE MIB che citavi prima, CNH Industrial è salita ai massimi da 3,5 anni, più 3,13%, confermando il trend positivo avviato martedì scorso con la pubblicazione dei conti, che sono stati giudicati positivamente dal mercato. E anche nel caso di Telecom, il principale catalizzatore sono proprio i dati di bilancio che sono stati al di sopra delle attese del mercato, e anche le indicazioni sugli anni futuri sono state considerate ambiziose. Gli analisti in particolare hanno apprezzato l'inversione di tendenza sul debito, che è sceso l'anno scorso di 2,2 miliardi. Allora, vado invece sui migliori e peggiori. Sintesi, meno 45, TAS, meno 8, GEQT, meno 7,5, Credito Valtellinese, meno 7, Unicredit, appunto, meno 6,80, Zucchi, meno 6,70, più 12% invece SMRE, e poi più 10 Novare, e poi Italia Online, più 8,90, Visibilia, più 7,20%. Grazie intanto a Paolo Netto, di Radio Corriere del Sole 24 Ore. Mi chiedete dell'euro, l'euro è 1,07, non ho dato gli altri indici, avete ragione, Parigi meno 1, Francoforte meno 1,20, Dow Jones invariato, Londra meno 0,22, e ribadisco anche l'indice di Milano meno 2,21%, ampiamente il peggiore oggi in Europa, il nostro indice. Dopo il GR24 parliamo invece di Unicredit, che ha avuto una giornata difficile, nel senso sospesa per eccesso di ribasso, poi è chiuso come peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Parleremo anche del decalogo per la stretta sui furbetti del cartellino, è arrivata con la legge Madia. Dopo GR. Ascolto Gianluca perché sei solo chiacchiere distintive. Perché non lo si può vedere. Perché è uno specchio deformante. Fa ridere ma fa anche riflettere. Ascolto Gianluca perché mutano le case, mutano le cose, mutano le mele d'arenetta deliziose, muta questa vita, ma ancora in cosa non si sa. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Diciotto e otto minuti. Allora, Unicredit oggi, e poi io non ho mai detto che tutti gli statali siano i furbetti del cartellino, anzi i pochi furbetti del cartellino, lo dico un ascoltatore, danneggiano sia come immagine che come lavoro anche i dipendenti pubblici. Allora, Luca Davide, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Ma che succede su Unicredit? Si è accorto adesso il mercato, rispetto a venerdì, dell'operazione di aumento di capitale, che vuol dire abbasserà, va a sconto del 40%, 38% quasi, appunto 40%? No, diciamo che sono movimenti tecnici e sono fisiologici, come gli analisti hanno sottolineato più volte questa mattina, perché l'andamento... Sì, oggi è partito il maxi aumento di capitale, che si concluderà il 10 marzo, deve raccogliere sul mercato 13 miliardi di euro. Esattamente, esattamente. Sostanzialmente andrà quasi più che a raddoppiare la capitalizzazione di venerdì, che era appunto di 13 miliardi. L'andamento è, come normale in questi casi, abbastanza frutto di considerazioni puramente tecniche. Di solito ci sono quelli che sono considerati e chiamati arbitraggi, cioè vendite di o del titolo dell'azione in sé, oppure dell'opzione, quindi che permette sostanzialmente la sottoscrizione dell'aumento. In questo caso l'andamento, oggi veniva spiegato così, era non dava spazio ad arbitraggi, quindi, come dire, ci dobbiamo attendere comunque questo tipo di oscillazioni. Oggi è stato un calo ed è frutto evidentemente della volontà degli investitori di cedere sul mercato, ovviamente, le opzioni per uscire sostanzialmente dall'investimento. Probabilmente invece nei prossimi giorni vedremo anche altri movimenti. Diciamo che non c'è da rimanere particolarmente perplessi dell'andamento odierno, c'è da più forse per chi magari ci ascolta ragionare sul da farsi, perché qua sostanzialmente bisogna decidere, almeno per chi ha in mano le azioni Unicredit, decidere cosa fare. E di fondo possiamo dire, schematizzare, ci sono... Sì, ricordiamo che chi sottoscrive l'aumento di capitale avrà 13 nuove azioni per ogni 5 titoli posseduti. In portafoglio, esattamente. E a questo punto appunto dovrà decidere che cosa fare, cioè se rimanere e non farsi diluire all'interno di questo maxi aumento di capitale, e in questo caso allora dovrà ovviamente sottoscrivere le azioni, esercitare ovviamente le opzioni e sostanzialmente quindi reinvestire lo stesso ammontare del proprio investimento che oggi detiene in portafoglio. Oppure al contrario decidere di uscire, a quel punto vendi i diritti e ovviamente ed è quello che probabilmente in parte abbiamo già visto oggi e incassi il relativo valore a cui sono quotati perché sono esattamente azioni. Oppure si può fare un'operazione intermedia che è quella di vendere metà dei diritti che si hanno in mano, con quell'incasso sottoscrivere nuove azioni ovviamente con gli altri diritti che rimangono in portafoglio. Ecco, diciamo che all'interno di questo range di possibilità estreme ovviamente l'opzione che hanno tutti i detentori di azioni Unicredit oggi. E che cosa, come dire, quale può essere il criterio ovviamente per decidere cosa fare? Beh, qua si tratta di sostanzialmente, come dire, è un atto di fede, usando una battuta, perché se credi nel progetto prospettato dall'amministratore delegato Jean-Pierre Mustier, allora, e nella sua realizzabilità ovviamente, allora investi e fai ovviamente un sacrificio, credi nel cosiddetto upside del titolo, cioè nella possibilità che ci sia un apprezzamento. Se diversamente l'operazione di smaltimento delle sofferenze, di pulizia del portafoglio, di rilancio vero e proprio di questa che è la prima banca internazionale italiana, a quel punto esci e ovviamente non fai altro che liquidare il tuo investimento. Per questo che diciamo le technicalities in questa fase forse stanno, passatemi un termine, stanno a zero, nel senso che in fin dei conti è più questione di banche d'affari, di andare, ad esempio il tema del TERP, dello sconto sul TERP, è una questione tecnica anche qua, sostanzialmente qua il punto è come la torta verrà divisa fra le banche d'affari in caso di un inoptato che magari può essere rimanere sul mercato, perché ricordiamolo, l'aumento di capitale di Unicredit 13 miliardi, il più grande aumento di capitale della storia borsistica italiana, uno dei più grandi nella storia invece europea, comunque garantito dalle banche d'affari. Cioè la parte che non viene sottoscritta dagli azionisti la comprano le banche. Esattamente, loro hanno messo la loro firma, hanno garantito che comunque questo aumento di capitale lo vogliono portare a termine. Evidentemente questo è, insomma, il segnale che c'è un clima di fiducia attorno al progetto presentato da Mustier. Valido o non valido che sia, questo lo vedremo ovviamente col tempo. Diciamo che il primo tassello è arrivato nel weekend con la firma di un accordo ovviamente con le parti sindacali, 3.900 uscite entro il 2024, insomma fa vedere che comunque si vuole incastonare, diciamo così, incardinarlo in un percorso di fattibilità. È una sfida che sicuramente dovrà essere portata a termine. E quindi adesso vedremo quanto costerà, mi chiedono, insomma, l'aumento, da quello che abbiamo capito circa al massimo 500 milioni sono le commissioni, queste si pagano commissioni per la consulenza, le commissioni di garanzia e quant'altro, per cui sui 500 milioni di euro il costo, l'ammontare, diciamo, complessivo per Unicredit. Grazie anche a Luca Davi. Grazie a voi. Allora, andiamo verso l'ultimo tema della puntata. Vedo ancora moltissimi messaggi. Non è che possiamo fare tutta la puntata sull'euro, la lira, l'euro, l'uscita dall'euro. Per favore, la campagna elettorale è ancora lunga. Poi cerchiamo di essere anche un pochino seri. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. E poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Traffico. Focus Economia. Allora, massimo rispetto per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione che fanno bene il loro lavoro, per cui non c'è nulla di critica a questo, e anche mi segnalano alcuni guardi che da noi i giorni di malattie medie sono 3 all'anno, ma ci mancherebbe. E infatti l'immagine viene delle volte appunto offuscata dall'atteggiamento di alcuni personaggi, che forse ha ragione chi dice basta chiamare i furbetti del cartellino, chiamiamoli ladri. Ha ragione, ladri e basta. Che furbetti del cartellino sembra già così un po' una roba da Pierino, sono ladri e basta. Allora, perché ne parliamo? Perché arriva una sorta di decalogo che dovrebbe mettere in fila i 10 casi in cui per un dipendente pubblico scatta l'espulsione, dalla falsa attestazione della presenza allo scarso rendimento. E quindi la riforma Madia, che dovrebbe approvare tra poco in Consiglio dei Ministri, metterà anche in mano al capitolo che tocca i licenziamenti. Vizi formali, cavilli giuridici non possono fermare le sanzioni, e anche la procedura sprint, diciamo, immaginata per i furbetti, le catene per i ladri delle timbrature, verrà estesa a tutti gli illeciti commessi in flagranza, quindi anche a chi ruba o si macchia di corruzione. Deve però essere ripreso l'elenco che vige oggi, tra cui anche l'assenza giustificazione per più giorni, il rifiuto del trasferimento, la presentazione di documenti mendaci per ottenere il posto. Chiedo di fare la summa, diciamo, di tutti questi elementi a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Gianni, buonasera. Buonasera a voi, eccoci qua. No, domanda un po' da neofita, scusami, ma la il documento mendace, l'assenza senza giustificazione, già da soli non costituiscono un elemento per il licenziamento, la sospensione per licenziamento? Ma infatti il decalogo non è nuovo, la novità è che diventa un decalogo, nel senso che hanno aggiunto alcune fattispecie, per la precisione, alle cause di licenziamento, e sono soprattutto quelle, diciamo, meno di impatto, nel senso, e anche più difficili da provare, cioè per esempio lo scarso rendimento per il dipendente che nei 2 anni precedenti sia già stato sanzionato per scarso rendimento, quindi tu non devi fare nulla per 2 anni, becchi la sanzione, non ti redimi nel periodo successivo e per scarso rendimento grave può scattare il licenziamento. È un aggiornamento del testo unico del pubblico impiego che per la falsa attestazione eccetera eccetera, cioè per appunto i truffatori del cartellino, come si diceva, già prevede il licenziamento. Oltre a questa estensione, l'altro fatto più forse rilevante sul piano operativo è l'applicazione della procedura sprint, sospensione in 48 ore e licenziamento in 30 giorni per tutti i casi di flagranza dei comportamenti che appunto producono il licenziamento, quindi non più, come dire, la procedura lunga. L'altra cosa è che chi si difende si dovrà tendenzialmente difendere nel merito, cioè il vizio procedurale, il fatto che la Cassazione per esempio qualche mese fa ha ordinato il reintegro di un dipendente perché non si era rispettata la procedura del collegio disciplinare nella sua amministrazione. Non si contestava il fatto che la persona specifica fosse data presente in 2 posti, uno all'estremo nord, era un ispettore, e uno all'estremo sud nelle stesse ore della stessa giornata. Cioè il fatto era acclarato, però la sanzione non era scattata perché c'era un vizio procedurale nella formazione del collegio disciplinare. Questi fatti qui non dovrebbero più accadere se le nuove norme entreranno in vigore. Certo. Fammi dire anche che siamo alla bozza di un decreto legislativo attuativo della delega Madia, che deve ancora andare per la prima volta in Consiglio dei Ministri, poi deve andare alle commissioni parlamentari, ottenere l'intesa con regioni enti locali, tornare in Consiglio dei Ministri ed essere approvato definitivamente, e nel frattempo non si deve votare, perché sennò... Ecco, stavo per mi hai rubato la battuta, perché se si vota è pubblico impiego, ma lo dico con massimo rispetto, però... No, sono scelte, però sono scelte politiche, però dai, insomma, lo sappiamo che se si va a votare si cerca di non fare la spending review, l'abbiamo già visto, perché quello problema, va a toccare. Però, che se non si fa questo decreto qui non si rinnovano neanche i contratti, perché il decreto in altre parti è vero. Fa delle regole che servono a rinnovare i contratti. Ci allora, sono pro e contro. Ci sono pro e contro, e magari politicamente uno può dire: vabbè, rinnovo il decreto perché ho maggiori vantaggi politici di consenso, perché riescono a partire i contratti. No. Voglio capire una cosa, però, perché molti ascoltatori mi dicono: sì, ho capito, ma poi se il giudice li reintegra? Chiaro, come dire, siamo sempre nell'ambito di uno stato di diritto, quindi le decisioni del giudice sono sovrane. Se però passa un'altra novità prevista dalla bozza che è circolata in questi giorni, c'è una sorta di prova d'appello per l'amministrazione che entro 60 giorni dalla sentenza che reintegra il lavoratore si può riprovare con un nuovo procedimento disciplinare sullo stesso tema. Naturalmente ripartono tutti i termini e riparte l'iter. Il giudice nella reintegra però si deve o si dovrebbe attenere ai principi della nuova legge, quindi non si può reintegrare per un vizio formale. Se ti reintegra è perché nel procedimento viene fuori che il fatto è alla base della contestazione o non c'è, oppure non è nei termini in cui è stato contestato, quindi non è così grave. Allora, si è discusso anche, vorrei fare punto con te in questi giorni, dell'articolo 18, perché erano circolate varie ipotesi sempre in merito alla riforma Madia. Ho capito bene, insomma, l'articolo 18 viene mantenuto per gli statali nella versione pre-Fornero e pre-Jobs Act? Sì, viene confermata questa idea del governo di mantenere l'articolo 18 nella versione, diciamo, del 1970, per capirci, sulla base di un presupposto. Il presupposto è le nuove regole prevedono invece della reintegra, salvo i casi di discriminazione, un indennizzo monetario. Allora la giustificazione è: nel privato paga il datore di lavoro, in questo caso sarebbero le finanze pubbliche a dover pagare un errore, diciamo così, della pubblica amministrazione, che si licenzia e invece poi hai diritto all'indennizzo. Si vuole evitare questa cosa. In verità, come dire, nasce dal fatto che la struttura e la natura del lavoro pubblico sono diverse dal lavoro privato, si entra per concorso, eccetera. La discussione sarà ancora aperta. Teniamo conto che oggi su 3,2 milioni di dipendenti pubblici licenziamenti sono circa 200 all'anno. Quindi o è la struttura organizzata più efficiente nella storia dell'uomo, oppure c'è qualche difetto. Nella storia dell'umanità. Cioè un tasso di... Adesso, nessuno vuole licenziamenti, per cortesia. No. Abbiamo appena raccontato in apertura purtroppo quello che ha annunciato Carrefour. Però sappiamo che c'è un dato fisiologico in cui nessuno è completamente efficiente. Ora, scoprire che nel privato, oltre ai licenziamenti come crisi aziendale, ci sono licenziamenti per scarso rendimento. Nel pubblico 200 licenziamenti l'anno su 3 milioni e 200 mila dipendenti vuol dire che sono tutti straefficienti, oppure non sono valutati, oppure non sono valutati e non si riesce a licenziare. E l'ultima domanda che ho per te riguarda l'INPS, perché le assenze per malattia, ripeto, non vogliamo fare tutto un'erba un fascio, e ci sono casi, e li abbiamo anche raccontati, di medie assolutamente basse di malattie, in altre no. Qualcuno mi chiede, però Gianni, scusami se mi interrompo, se il concorso pubblico è come il battesimo, una volta avuto sei immune da tutto. Vabbè, è una vecchia polemica sull'articolo 18, non ci voglio rientrare, a mio avviso è stato sbagliatissimo non estenderlo, anche se fare il Jobs Act anche al pubblico impiego. Comunque, stavo illustrando le scelte del governo, poi si può discutere. Esatto, restiamo sull'INPS. Chi guarderà le assenze per malattie nel pubblico impiego? Ci sono novità anche su questo fronte, tra l'altro l'INPS ha anche la lista non solo dei certificati medici, ma anche dei 1300 medici presenti nelle liste speciali, non manco sapevo l'esistenza, ossia personale sottoposto a un regime di incompatibilità per evitare conflitti di interesse tra controllore e controllato, il medico che deve fare il certificato a un parente o quant'altro. Comunque l'INPS sulle assenze per malattia. Si torna tutto in capo all'INPS, finendo un tira e molla che si era avviato nel 2009 con la legge Brunetta, e con un finanziamento di circa 25 milioni per attivare le visite fiscali, con peraltro un allineamento delle fasce di reperibilità, cioè quando devi farti trovare a casa dal medico che viene a visitarti, allineamento delle regole tra il pubblico e il privato. Questo per superare l'accentramento, diciamo, all'INPS della responsabilità, per superare il fatto che molte amministrazioni, o alcune amministrazioni, dicevano di non poter fare le visite fiscali, in qualche caso era anche vero, perché mancavano i soldi per finanziare il meccanismo. Staremo a vedere i tempi, visto che me lo chiedono anche ancora. Tra l'altro, posso far notare una cosa adesso senza polemica, però ci sono anche le fasce orarie per la visita. Le ore giornaliere sono 7 nel pubblico, nel privato sono a 4, no? Per cui, insomma, cerchiamo di armonizzare pubblico e privato, così non c'è nessuna crociata contro i dipendenti pubblici. Ma cosa sta scrivendo? C'è la legge Madia, stiamo spiegando la legge Madia, che ancora ha un percorso di una lentezza totale. Ma qual è la crociata? Guardi, lo dico una volta per tutte, perché abbiamo cercato di spiegarlo anche ai sindacati in questi anni. avercela con i ladri del cartellino significa tutelare la stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici che lavorano bene e si fanno il mazzo anche al posto degli altri. Ok? Non significa martoriare, così come chiedere il merito anche nella pubblica amministrazione per gli insegnanti, per i poliziotti, per tutti, significa riconoscere a chi è bravo che deve andare avanti, non avvantaggiare sempre, capito, tutti nel mare magnum, anche i fannulloni, sto per dire un'altra parola. Comunque, dammi i tempi dell'iter. Allora, prima lettura, seconda metà di febbraio, giro che dicevamo prima, Parlamento, enti locali, bla bla bla, vario definitivo metà aprile. Teniamo conto che queste regole antiassenteismo sono l'attuazione di un punto dell'accordo fra governo e sindacati del 30 novembre. Quindi anche i sindacati, in parte, voglio dire, conoscono che il problema esiste. Ok, grazie anche a Gianni Trovati e a voi. Del Sole 24 Ore. Ed è veramente tutto per questo, infatti scrive giustamente un ascoltatore, a fine mese prendo lo stesso stipendio della collega che lavora la metà per la malattia o altre cose. Allora, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, ci risentiamo domani dalle 17 in poi, intanto da Sebastiano Berisoni le auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.